Questo credo purtroppo anche per una mancanza di cultura del nostro paese. Purtroppo lo sport non è considerato un'eccellenza, no? Delle nostre, come nostra priorità. Però detto questo, sono sempre stato molto appassionato di calcio, per cui ho avuto la fortuna di tentare, insomma, di provare a lavorare come giornalista in una televisione nazionale, quindi sto cercando di impegnarmi al massimo. L'impegno e la passione che mettevo prima in padana adesso lo sto riversando in questo settore, quindi non lo so, giudicate voi come sono. Ah sì sì, insomma, arriveranno sicuramente le pagelle dei nostri ascoltatori, perché Salvatore Sanzo adesso è diventato l'esperto della Serie B per Sky Sport 24. Dal punto di vista culturale, mentale, di approccio, Salvatore, per uno che ha costruito tutta la sua carriera appunto nella scherma e in uno sport popolare ma considerato tra virgolette minore nella nostra deficitaria cultura sportiva, quanto è difficile invece rinnamorarsi e riciclarsi in quel calcio che pure durante la carriera tanto spazio ha tolto a tanti meritati dei successi? Ma io francamente non ho mai contestato, insomma, questo, nel senso che non sono stato tra virgolette geloso, invidioso del fatto che ci sia tantissima popolarità nel mondo del calcio. Credo semmai che sarebbe più utile che anche gli altri sport abbiano qualche spazio maggiore. Poi naturalmente siamo anche noi, i cosiddetti figli dello sport minore, che dobbiamo tentare di ricavarlo questo spazio e di meritarcelo non soltanto con i risultati ma magari anche con maggiore spettacolo. Ecco, quindi credo che ci siano un po' le due componenti per cui il cosiddetto sport minore non riesce a fare breccia sul pubblico e quindi anche naturalmente sui media. Credo che ci sia una conseguenza diretta da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'attività poi a Sky, devo dire che è stato molto semplice, prima di tutto, come dicevo prima, perché sono appassionato di calcio da sempre, e in secondo luogo perché ho semplicemente trasferito l'impegno che mettevo in un settore in un altro. Sicuramente devo migliorare, così come dovevo migliorare in passato per poter vincere. E adesso gli allenamenti sono diventati ore di diretta, perché sappiamo bene che ogni minuto che passa si impara qualcosa. Faccio riferimento alla prima parte della tua risposta. Ci volevi forse dire che quello di sentirsi figli di uno sport minore diventa a volte anche luogo comune e quindi ancor più difficile da superare? Beh, non è semplice. E mi riallaccio al discorso che facevo inizialmente, cioè credo veramente che in Italia manchi la cultura dello sport in generale. Io, insomma, come dire, basta ad esempio constatare che i nostri impianti sportivi di ogni genere, quindi dagli stadi di calcio ma anche gli impianti sportivi, quelli di base, sono assolutamente sia insufficienti come numero ma soprattutto sono inadeguati, la maggior parte non sono accessibili, per cui non sono idonei per la diversa abilità, e credo che su questo la politica si dovrebbe interrogare e fare un ragionamento serio, insomma, tanto più che ad oggi non esiste un ministero dello sport ad hoc che dovrebbe risolvere, secondo me, queste problematiche. Insomma, c'è la famosa legge sugli stadi di calcio che è ferma in commissione cultura alla Camera. Insomma, c'è l'auspicio che si arrivi anche in fondo a queste procedure, perché c'è veramente necessità e bisogno di trovare spazi adeguati ed idonei, e soprattutto c'è bisogno di fare sport. Vedi, mi sono sempre arrabbiato quando si parla sempre di sport come momento di carattere sociale, giovanile, culturale, di salute, però poi alla fine a tutte queste necessità le risposte sono sempre, a mio parere, non totalmente adeguate. Eh sì, difficile darti torto. Da esperto della Serie B, immagino che purtroppo di impianti non all'altezza tu durante quest'anno ne stia vedendo parecchi, no? Beh, sì, se non sbaglio mi risulta che molti stadi di calcio giocano con la deroga, per cui significa che non sono conformi alle norme nazionali. Ecco, anche su questo bisognerebbe intervenire, no? Altrimenti continuano a fare le leggi se poi ci sono sempre le deroghe. Non è semplice, perché comunque ci sono tante risorse che devono essere poi investite, ma insomma credo che il futuro sia su un lavoro, su un'attività, un misto pubblico-privato. Senza di quello non credo che si potrà mai risolvere questa problematica. Ci sono stadi di calcio in Serie B sicuramente inadeguati, però ci sono tanti stadi di calcio senza dubbio spettacolari, e poi quello che diverte è la passione, no? Mi viene in mente il Novara in questo momento, dà soddisfazione, no? Una piccola città che dopo tanti anni ritrova la Serie B, c'è tanto entusiasmo, E questo è anche il bello poi dello sport e in questo caso in particolare del calcio. Eh sì, infatti proprio quello ti volevo chiedere, ce la farà il Novara a conquistare la A e secondo te chi l'accompagnerà nella massima serie? Bah, io penso ancora oggi che Siena ed Atalanta siano le squadre più forti di questo campionato, un passo indietro il Torino, allora dovesse risolvere delle problematiche che credo siano veramente interiori proprio, non interne. Il Novara è sicuramente una bellissima realtà, mi ricorda un po' il Pisa di Ventura di 2 anni fa, grande entusiasmo, promozione dalla C1, oggi prima divisione, una partenza lanciatissima, poi però il Pisa ebbe la sfortuna di 2 gravi infortuni, Cerci, Cuto, Zavallora. Come dire, se al Novara, e non glielo auguro naturalmente che incrociano le dita, ma dovessero mancare Gonzales e Marianini, ecco, avrebbe più difficoltà. Allora, ascoltatori di Radio 24 di A Bordo Campo, come avete sentito, l'allievo Salvatore Sanzo sta studiando la Serie B e la sta facendo bene, però permettimi di chiudere, partono anche questo fine settimana i campionati del mondo di scherma a Parigi, secondo me, Totò, diciamocelo francamente, stare là a far zapping col telecomando tra Parigi e i campi della serie cadetta. No, beh, sicuramente, insomma, è un amore che non si scorderà mai, per cui seguirò i campionati del mondo e sono convinto che i ragazzi come sempre faranno bene e come sempre conquisteranno tante medaglie dai Fioretti, quindi con Vezzali, Baldini, Cassarà, Elisa Di Francesca, a Montano, insomma io credo che davvero gli interpreti, a Tagliarioli, insomma campione olimpico, ce ne siano davvero tanti di atleti di alto livello e si confermeranno senza dubbio a questi livelli, ma la scherma credo che ormai non sia davvero più una sorpresa, credo che ormai sia sempre una conferma. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima sempre alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto da Dario Ricci.